Eccoci qui con l'agenda di oggi, martedì 12 febbraio 2013. Siamo al telefono con una compagna di Bologna. Ciao. Ciao Daria. Ciao bella. Senti, allora, state organizzando per venerdì prossimo un presidio il cui comunicato dice difendiamoci dai difensori. Innanzitutto, appunto, raccontaci che cosa è successo. Ne abbiamo parlato per radio qualche settimana fa, appunto, delle compagne sono state fermate e portate in questura e anche aggredite da parte dalle forze dell'ordine. Indescrivibile, cioè, anche se naturalmente non ci stupisce più di un tanto, no? Perché non è la prima volta che succedono queste cose. Però questo qui è stato venerdì, il 17 gennaio. Queste ragazze venivano dal Pratello. Il Pratello, per chi non è di Bologna, è una zona dove si svolge un po' la vita notturna bolognese, c'è una zona di bar, insomma si sta bene, i giovani vanno lì, eccetera. E queste tre compagne erano in compagnia dei loro amici, no? Sono state fermate da tre figuri presunti della Digos, che non si sono però identificati. Allora, questi qui hanno allontanato gli amici delle ragazze, hanno detto voi non c'entrate niente, andate via. E intanto hanno fatto arrivare tre volanti della polizia. Perché? Perché le ragazze, finché loro non si identificavano, non gli volevano dare i documenti. Allora, le ragazze sono state accerchiate da 15 poliziotti, no? Sono state insultate, palleggiate, maltrattate e caricate di forza sulle auto e portate in questura, avendo commesso appunto questo reato di chiedere ai tipi di identificarsi, no? In questura è stato un delirio, cioè insulti, cioè sessismo totale, puttana e quant'altro, no? Provocazioni. Gli hanno fatto anche la perquisizione corporale con le flessioni di fronte a una poliziotta che era molto contenta di definirsi asessuata, non donna, di rivendicare che lei ha le palle più dei maschi. Allora, vabbè, questo è un particolare. Dopo tre ore le compagne escono con una sfilza di denunce, resistenza, oltraggio, minacce pubblico ufficiale e via andando. Allora, di fronte a questo fatto noi non rimaniamo sbigottite, perché voglio dire, ne succedono di peggio anche, ma è chiaro che la Digos e la polizia si sentono libere di fare quello che vogliono. Io non so, ma a Bologna in particolare, in questo caso addirittura hanno allontanato i compagni e si sono portati via le ragazze, cioè sembra una roba incredibile, insomma. Allora, la loro violenza sessista è legata alla loro funzione repressiva. Per me questi qui si chiamano corpi repressivi dello Stato, tutti questi, e quindi è legata al loro ruolo di difensore di questo sistema che è capitalista, no? E quindi c'è la supremazia di pochi su tanti. Ma è anche un sistema patriarcale che dà la prevaricazione degli uomini sulle donne. Quindi la violenza sessista è strutturale a questo potere e quindi è utile per il suo mantenimento. Allora, le donne sono isolabili, no? In tutti i modi, e sono molto spesso isolate. Pensiamo per esempio a quelle donne a Bologna che sono state ricattate all'ufficio immigrazione della Questura di Bologna. Allora, permesso di soggiorno in cambio di favori sessuali, no? Che a casa mia non si chiamano favori sessuali, ma si chiamano stupro. Pensiamo alla donna dell'Aquila, stuprata brutalmente da un gruppo di militari di cui è stato denunciato uno solo tale Tuccia. Cioè, la nostra parola d'ordine, allora, in questo caso è diventata basta sopportare. Usiamo le armi di cui disponiamo in nostra difesa, ma anche in attacco. E per cominciare, usiamo la solidarietà. Cioè, reagiamo insieme, compatte, determinate, a questo ennesimo inaccettabile sopruso. Allora, quindi noi siamo solidali con tutte le donne che qui altrove lottano per la difesa della propria vita. Abbiamo deciso di scendere in strada con un presidio, ci teniamo a dire, rumoroso, che faccia sentire le nostre voci. L'appuntamento è per il 15 febbraio, venerdì, alle ore 18, in piazza San Francesco a Bologna. Senti, si tratta di un presidio, in movimento? In movimento, diciamo, ecco, in movimento. Senti, questo volantino è molto bello, insomma, tu ci hai detto i concetti chiave che condividiamo perfettamente, noi l'abbiamo anche pubblicato per chi se lo volesse leggere integralmente anche sul nostro blog. Ci piace anche come vi siete firmati, avete deciso di firmarvi Fronte di Liberazione Femminista e Lesbica, ovvero FLFL. Sì, è bello, no? Sì, è bello, è bello il volantino, è bella l'iniziativa, ci sembra molto importante, ci sembra giusto iniziare a centrare, a nominare appunto chi sono questi loschi figuri, sì, basta, cioè, e quanto la loro violenza istituzionale, quanto la loro violenza repressiva sui corpi, sulle donne, passa attraverso la violenza sessuale, passa attraverso lo stupro, insomma è un po' di tempo che ne parliamo, citavi il processo dell'Aquila, ma insomma ci sono tanti altri fatti, sono stati scritti anche nel tempo dei volantini, anche che cercano di mettere insieme ma non so, possiamo per esempio ricordare a che cosa succedeva all'interno del CIE di Via Corelli con i ricatti sessuali contro le detenute e così via. Ci sembra importante che delle compagne insomma abbiano scelto di scendere in piazza su questa tematica. Ecco, soprattutto io mi ricordo sempre la storia di Joy, che è stata violentata all'interno di questo CIE da tale commissario adesso, e le altre donne che si sono ribellate sono state picchiate. Comunque Joy, per fortuna, ha dovuto, grazie alle donne di fuori del CIE, insomma è fuori adesso, e quindi cioè gli possiamo dire fra virgolette che gli è andata bene a lei, ma quante altre sono lì e sono appunto isolate da noi e da tutto e dal mondo. Quindi cioè questo deve finire, questa storia, cioè deve finire questa storia, e noi diamo un appuntamento molto caloroso, cioè intervenite tutte, perché tutto questo riguarda tutte, no? Quindi vi aspettiamo numerosi il 15 e il 18 in Piazza San Francesco a Bologna. Noi ci saremo. Diciamo che abbiamo, ci siamo dette tutto, e noi ti ringraziamo molto, e poi ci sentiremo magari appunto prossimamente. No, grazie a voi che fate sempre queste belle cose, e insomma va bene. Va bene. Vi saluto, un bacio. Un abbraccio grande e buona lotta. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.